GR24, il sole 24 ore. Il premier Monti visita le zone dell'Emilia colpite dal terremoto e assicura: troveremo i soldi per aiutarvi. L'appello degli imprenditori: verifiche degli stabilimenti subito per poter ripartire. Il neo sindaco di Palermo Orlando: la mia candidatura è stata anticasta, i partiti devono cambiare altrimenti la politica morirà. Nella fotografia dell'Istat, italiani più poveri soprattutto al sud, penalizzati in particolare donne e giovani, e l'ascensore sociale resta bloccato. Fecondazione eterologa: oggi la consulta deve decidere se consentirla anche in Italia, la speranza di molte coppie sterili. E buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dunque, ancora scosse di terremoto in Emilia Romagna, dove questa mattina è arrivato anche il presidente del Consiglio Mario Monti. Il racconto dunque della mattinata con la nostra Katia Caramelli. Sì, buongiorno. Prima tappa Sant'Agostino, il comune che ha pagato il tributo più alto, con gli operai che, lo ricorderete, hanno perso la vita durante il turno di lavoro notturno. Poi Monti si è spostato a Finale Emilia, l'altro paesino il cui centro è ancora completamente inagibile e dove le continue scosse anche questa mattina provocano ancora crolli. Una visita comunque lampo, quella del premier, nei luoghi più provati dal terremoto per portare soprattutto, detto lui stesso, le condoglianze ai parenti delle vittime e rendersi conto poi dei danni causati. Ma sentiamo Monti. Fra poche ore a Roma, in Consiglio dei Ministri, dichiareremo lo stato di emergenza, verrà emessa un'ordinanza della Protezione Civile, insomma tutti questi aspetti tecnico-amministrativi importanti, ma soprattutto ho voluto portare il senso di vicinanza del governo con tutte le sue strutture a queste famiglie, a queste popolazioni così colpite negli affetti e anche nella loro attività quotidiana. Il premier non ha escluso uno stop ai pagamenti fiscali. Troveremo le coperture, ha chiarito Monti, che ha già affrontato la questione con il presidente della regione Errani. Non sono mancate però le contestazioni da parte di un piccolo gruppo di cittadini al suo arrivo a Sant'Agostino. Preoccupati questi cittadini dal rischio che le spese della ricostruzione possano pesare proprio sulla popolazione alla luce della recente riforma della protezione civile. Allora sentiamo le motivazioni della contestazione. Stiamo aspettando che decidano oggi in Parlamento che cosa fare di questa bellissima legge che dirà, a giochi già iniziati, chi deve salvare le nostre case, se le assicurazioni che dobbiamo pagare noi, o se arriverà un aiuto dallo Stato, che è lo Stato che deve provvedere ai cittadini. Da Monti ci aspettavamo quello che ci si aspetta dalle istituzioni, l'aiuto ai cittadini, il paese per i cittadini. Per Monti, tuttavia, proprio in questa occasione si sta dando buona prova che la riforma della protezione civile vada verso un sistema più razionale ed efficace. Lo stato di emergenza in caso di calamità può anche superare il tetto dei 100 giorni indicato dal decreto di riforma della protezione civile. A chiarirlo è stato il sottosegretario Antonio Catricalà nella sua informativa di oggi alla Camera proprio sul terremoto. Catricalà ha anche fornito i numeri degli sfollati, sentiamo. A causa dell'evento si è purtroppo dovuto procedere all'evacuazione di diversi nuclei familiari per un totale di 5.262 evacuati, a fronte di 7.000 posti letto messi a disposizione dal sistema integrato della protezione civile. Grazie dunque a Katia Caramelli, e noi restiamo però sul tema perché il tessuto industriale è davvero distrutto e molto in difficoltà in questi giorni. Si può ipotizzare che i danni diretti alle imprese non siano inferiori ad alcune centinaia di milioni di euro. L'ha detto Confindustria Emilia Romagna, che elenca le priorità immediate al microfono di Anna Marino. Certamente parliamo di parecchie centinaia di milioni di euro, non c'è dubbio, perché bisogna sommare gli edifici che hanno avuto dei danni molto importanti, e sono centinaia, alle migliaia di altri edifici all'interno dei quali i macchinari hanno subito a loro volta dei danni. Come si fa a quantificare quali sono gli interventi per limitare i danni? In Emilia, fortunatamente, lo spirito imprenditoriale, il desiderio di fare è molto forte. A questo punto la cosa principale è quella di accelerare al massimo le verifiche per consentire l'usabilità degli stabilimenti. Secondariamente noi abbiamo chiesto al governo ovviamente la dichiarazione dello stato di emergenza e una serie di priorità, in primis di strumenti creditizi in modo da poter sostenere l'attività di riavvio delle attività produttive, compreso anche una moratoria sui mutui. Poi da parte del governo noi chiediamo una sospensione degli adempimenti fiscali, tributari e contributivi, qui pensiamo soprattutto alla prossima scadenza dell'IMU evidentemente. Terza cosa è un'attivazione urgente degli ammortizzatori sociali, anche in deroga, per il tempo che sarà necessario a riattivare, e solo per quello necessario per riattivare l'attività. Ed era Gaetano Maccaferri di Confindustria Emilia Romagna al microfono di Anna Marino. Intanto i ferraresi raccontano le proprie esperienze. Il caso di una signora che parla di come solo una casualità abbia salvato un suo carissimo amico operaio nella Sant'Agostino Ceramica, in cui, come sapete, si contano 3 delle 7 vittime del sisma. Sentiamo l'intervista di Irene Privitera. Quella famosa fabbrica di Sant'Agostino che è crollata. E un mio grandissimo amico ieri mi ha telefonato, lui per sua fortuna doveva fare quel turno lì, due sono morti là sotto e doveva essere il suo turno, invece è stato sostituito e sono morti in due là sotto. Così è stata una casualità? Sì, per caso. E quindi sono qui, non so. Qualcosa mi ha salvato. È morto purtroppo, i suoi due colleghi sono morti. Cambiamo pagina, andiamo alla politica. Il giorno dopo l'esito dei ballottaggi delle amministrative, è nata la Terza Repubblica, dice il sindaco di Palermo, appena rieletto, Leo Luca Orlando, commenta così il risultato elettorale. Sentiamolo al microfono di Valentina Furlanetto. Sono risultati nei quali viene eletto un sindaco a Parma, un sindaco a Palermo, con uno stacco enorme rispetto ai partiti di riferimento, che manda un messaggio che c'è una inadeguatezza dei partiti a rappresentare il bisogno di cambiamento. La mia candidatura apparsa al tempo stesso una candidatura quasi anticasta, insomma, perché è contraria al cadrismo di casta, al tempo stesso di un professionista, di un esperto, di uno che il sindaco sa fare, l'ha già fatto, che ci mette l'anima. Credo che o i partiti capiscono che bisogna trovare qualcosa che sia diversa dalla potestà sterile e dal tecnicismo senza animo, diversamente c'è il rischio che muoia la politica e prevalga la disperazione e lo sbandamento. È nata la Terza Repubblica con questo voto? E io sostengo che nel 93 pensavamo che nascesse la seconda, adesso speriamo che nasca la terza. Ora andiamo a Brindisi per le ultime notizie sulle indagini relative all'attentato di sabato di fronte alla scuola, attentato nel quale, come sapete ormai, è morta la 16enne Melissa Bassin. Diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, un'indagine, quella di Brindisi, che procede con accelerazioni brusche, frenate, emblematico il pomeriggio di ieri con 2 persone, 2 fratelli portati in questura con tanto di nomi circolati in città e poi rilasciati in serata. Uno dei 2 sembrava corrispondesse all'uomo ripreso nel video davanti alla scuola, sia per caratteristiche somatiche sia per una difficoltà nel muovere la mano, simile al ricercato, sia per le competenze in fatto di elettronica. Nel frattempo in città l'assio verso i fermati era salito a livelli di allarme, con una folla che si era radunata sotto la questura, quindi il comunicato in serata degli inquirenti: non abbiamo nessun indagato né arrestato. Questa mattina intanto è stato il ministro dell'interno Cancellieri a riferire in Parlamento su quanto accaduto. La Cancellieri ha parlato di atto terroristico e di nessuna pista esclusa. Ascoltiamo allora questo passaggio. Al momento vengono scrupolosamente vagliate tutte le possibili direttrici e nessuna pista può essere esclusa. Indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva matrice, che mi auguro possa avvenire già nelle prossime ore, non vi è dubbio che l'attentato di Brindisi, per il gravissimo e diffuso allarme che ne è seguito, possa prestarsi ad una lettura in chiave terroristica. Il ministro ha confermato l'esistenza del video con l'uomo che preme il telecomando ed ha ribadito la piena collaborazione tra gli inquirenti. È tutto, linea allo studio. E intanto questa mattina c'è stato un corteo di studenti nelle vie della città di Brindisi. Si sono recati gli studenti fino alla scuola Morvillo Falcone, dove hanno incontrato gli studenti della scuola, le compagne di Melissa. Hanno però anche lanciato un appello a noi giornalisti: basta con l'assedio mediatico. E domani 23 maggio è il 20° anniversario della strage di Capaci, ci saranno manifestazioni in tutta Italia. Giuseppe Costanza è stato l'autista di Giovanni Falcone negli ultimi 8 anni prima dell'attentato di Capaci, il 23 maggio appunto del 92. Per 20 anni Costanza, che era a bordo della macchina saltata in aria a Capaci, è stato dimenticato dalle istituzioni, isolato e mai invitato alle celebrazioni pubbliche. Quest'anno per la prima volta gli è arrivato l'invito. E allora sentiamo Costanza al microfono di Alessandro Milan. Quest'anno il ministro Profumo mi ha inviato l'invito e voglio ringraziarlo pubblicamente per questa sua sensibilità. Ma che non si fermi ad oggi, che dia un segnale di presenza. Faccio presente un'altra cosa: tutte queste fondazioni, associazioni, via discodendo, che sono, vivono di contributi pubblici. La collettività paga per mantenere queste fondazioni. Che ci sia un controllo, non gli si dà pieno potere. Ma domani quindi tu sarai alle celebrazioni? Me lo devo ancora pensare, non ho deciso. Io sono del parere che è giusto che la mia presenza ci sia, ma vorrei prima di una mia presenza essere contattato e non presentarmi lì così. Prima di presentarmi lì vorrei un chiarimento, perché questa situazione non può finire così. Arrivo lì e che faccio? Con chi parlo? Chi sono quando io non vengo nemmeno considerato per 20 anni? Il premier Monti visita le zone dell'Emilia colpite dal terremoto e promette: troveremo i soldi per aiutarvi. L'appello degli imprenditori: verifiche degli stabilimenti subito per poter ripartire. Il neosindaco di Palermo Orlando: la mia candidatura è stata anticasta, i partiti devono cambiare altrimenti la politica morirà. In apertura di questa seconda parte di GR24 ci colleghiamo con Palazzo Chigi, perché il premier Mario Monti, come dicevamo dai titoli, dopo la visita in Emilia sta tenendo una conferenza stampa. Sentiamo le sue parole. Ovviamente tiene in considerazione le proposte che sono giunte in Parlamento. Mi riferisco in particolare a quella dell'onorevole Angelino Alfano, che ha proposto di affidare una delega al governo per la compensazione tra i crediti e i debiti delle imprese con la PA e soprattutto per allineare l'Italia ai principali paesi europei sul pagamento dei debiti. In questo senso il governo, a conferma dell'impegno pubblicamente assunto nello scorso febbraio con l'Unione Europea, intende recepire la direttiva sui ritardati pagamenti entro la fine del 2012. Quindi in anticipo rispetto al termine comunitario previsto, che è metà marzo del prossimo anno. La direttiva, come sapete, regolamenta i termini di pagamento nei rapporti di fornitura e in particolare fissa in 60 giorni il termine massimo non derogabile di pagamento nei rapporti commerciali tra imprese e pubblica amministrazione. Con l'intervento di oggi siamo in grado di realizzare un progressivo rientro del debito commerciale accumulato dalla PA, riuscendo a smaltire una quota di 20-30 miliardi già nel corso di quest'anno. Voglio ricordare inoltre che già nel decreto Cresci Italia dello scorso dicembre abbiamo destinato 5,7 miliardi allo smaltimento dei crediti commerciali, prevalentemente dell'amministrazione centrale. Stiamo sentendo il premier Mario Monti, in realtà non sta parlando dell'Emilia ma sta parlando dell'importante degli attesi decreti per la compensazione dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Fra poco torneremo ad ascoltare le parole di Monti, nel frattempo andiamo avanti con la seconda parte di GR24. In Italia potrebbe essere necessaria una manovra fiscale ulteriore in considerazione della recessione prevista, lo scrive l'OCSE nel suo Outlook outlook semestrale, pur aggiungendo che le prudenti stime del governo sulle entrate delle misure antievasioni forniscono un margine di sicurezza. Questa invece è l'impietosa fotografia dell'Istat nel suo rapporto annuale. Sempre più lontani dagli standard europei, l'Italia non cresce né a livello economico né a livello sociale. Nel periodo 2000-2011 l'Italia cresce solo dello 0,4% per anno ed è ultima tra i 27 stati membri dell'Unione Europea. Il paese infatti produce poco. La crisi poi acuisce sempre di più le difficoltà economiche che si trasformano in difficoltà sociali. Si amplia ancora di più il divario tra nord e sud Italia, con il mezzogiorno che raccoglie la maggior parte delle famiglie povere, il 67%. A nord la situazione è molto meno critica, l'occupazione aumenta di quasi l'8%, al sud invece diminuisce. Associando questi dati al fatto che i salari tra il 93 e il 2011 sono rimasti fermi, non può certo sorprendere che le famiglie su cui è aumentato il carico fiscale vedono ridotto il loro potere d'acquisto del 5%. I giovani e le donne sempre più penalizzati, mentre il 24% dei ragazzi resta a casa perché senza lavoro, le donne sono sempre più escluse. Quasi il 34% non percepisce alcun reddito. Praticamente inesistente poi il cosiddetto ascensore sociale, bloccato da circa 50 anni. La classe sociale dei genitori influenza ancora il destino dei figli e già dalla scuola. Tra i nati negli anni 80 solo 20 ragazzi su 100 provenienti da classi più basse sono riusciti a iscriversi all'università. Doriana Leonardo, Radio 24, il Sole 24. Ed ora torniamo a collegarci con Palazzo Chigi, sta parlando il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli. I propri crediti con i propri debiti che sono a ruolo nelle nostre, con il fisco. Quindi un doppio intervento di liquidità e anche di, in un certo senso, pagamento del proprio credito con la possibilità di compensarlo con il proprio debito. Ci sarà, e su queste stiamo lavorando con la stessa intensità e urgenza, una fase 2 e una fase 3. La fase 2 è quella di trovare... Avete sentito di fatto quattro decreti? Sì, era la voce del vice ministro Grilli nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sui crediti, gli attesissimi crediti attesi soprattutto dalle imprese per la compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Noi andiamo avanti con il nostro GR24 e con la cronaca. Un piccolo imprenditore di 40 anni si è tolto la vita negli uffici della sua falegnameria a Baiano, in provincia di Avellino. Divorziato, sembra che fosse in difficoltà economiche. Ed ora andiamo negli Stati Uniti. I think we all understand though what's at stake. What happens in Greece has an impact here in the United States. Penso che tutti comprendiamo che quello che sta accadendo in Grecia ha un impatto negli Stati Uniti. I governi europei devono agire in modo deciso per risolvere la crisi di debito nell'Eurozona. L'appello arriva dal presidente americano Barack Obama, l'avete sicuramente riconosciuto, che ha parlato durante la conferenza stampa a conclusione dei lavori del vertice NATO di Chicago. Secondo Obama è necessario che anche che le banche europee siano ricapitalizzate in modo che gli investitori riguadagnino fiducia e si deve garantire che la strategia per la crescita vada di pari passo con la disciplina fiscale e la politica monetaria aiuti paesi che come Spagna e Italia stanno facendo fatica a raggiungere gli obiettivi fissati. Restiamo negli Stati Uniti, le arcidiocesi di New York e Washington e una quarantina di gruppi cattolici hanno presentato denunce in 12 tribunali del paese contro la riforma sanitaria di Obama. La norma contestata prevede che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti un'assicurazione medica che comprende un rimborso per i contraccettivi. Secondo le organizzazioni cattoliche sarebbe una violazione della libertà di religione perché il governo, pagando, favorendo l'accesso alla contraccezione, imporrebbe ai credenti la violazione del credo religioso. E la consulta è in aula proprio in queste ore, deve decidere, in questo caso stiamo parlando dell'Italia, se consentire la fecondazione eterologa anche nel nostro paese. È cominciata alle 11 l'udienza della Corte Costituzionale che deciderà se il divieto di effettuare la fecondazione assistita eterologa sia legittimo o meno. Lo scenario di vita delle coppie che hanno problemi di sterilità, come spiega il genetista Carlo Flamigni, potrebbe cambiare radicalmente. Si apre un mondo nuovo perché andare all'estero voleva dire un mucchio di soldi e la possibilità di ricevere delle imponenti fregature. In tutti gli altri paesi europei, concepire in vitro un bambino utilizzando l'ovocita o lo sperma di una donatrice o un donatore è possibile. Ma in Italia, come spiega il professore Alberto Gambino, quando si parla di famiglia la Carta Costituzionale prevede profili di particolare tutela. Ed è la specificità della Carta Costituzionale italiana che negli articoli 29, 30 e 31 progressivamente parte dalla famiglia e amplia con l'articolo 30 e l'articolo 31 la tutela anche del nascituro. Allora possiamo comprendere che l'ipotesi di un'apertura con una fecondazione eterologa possa minare la situazione familiare, in particolare l'interesse del nascituro. È la quinta volta che la legge 40 passa per i banchi della Consulta. Una volta nel 2005, due nel 2009, una nel 2010 e ora nel 2012. Giorgia Mennuni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. Vi lascio a Voci dal Giro. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.